24. La storia. Cirmo fu una cosa bellissima per la gente. La gente amò i corridori perché erano un po' come sportivi, quelli più vicino al popolo. Io ho dei ricordi molto vivi di paesi del sud in cui le donne buttavano petali di rose dalle finestre quando passava il giro. Era una via di mezzo tra la festa di paese e la processione pagana. L'Italia per un italiano è l'evento più importante della stagione, insomma, anche perché ti senti vicino alla tua gente, impari a conoscere il tuo paese, e che è molto diverso tra l'altro tra il sud, il centro e il nord, quindi è l'evento più importante per noi. L'apoteosi di Francesco. Sono anni che il giro puntualmente, ecco, ogni mese di maggio comincia e con la sua carovana attraversa tendenzialmente e idealmente l'intera totalità del paese. Un mondo buono ed emotivo, secondo Indro Montanelli, il mondo degli sportivi vicino alla gente, il mondo dei ciclisti amati e seguiti, tappa dopo tappa. È il mondo del Giro d'Italia, la corsa tappa in bicicletta che da oltre 100 anni appassiona gli italiani. Una gara che in questo secolo di vita è diventata molto di più di un semplice evento sportivo. E allora la prima tappa di questo nostro Giro d'Italia inizia poco più di un secolo fa, nel 1909. Trusselli, Petit Bretton, Gagne, Rossetti, Galletti. Giro d'Italia nasce nel 1909 e nasce dopo che già in Francia era nato il Tour. La Gazzetta dello Sport batte sul tempo l'iniziativa che il Corriere della Sera stava per lanciare. Era lo storico Daniele Marchesini. Comincia così dunque, con una sorta di sfida tra Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, la più grande e significativa manifestazione sportiva italiana. 8 le tappe per un totale di 2.448 chilometri. 127 i concorrenti, 25.000 lire, il monte premi, una vera fortuna per l'epoca. La permanenza in sella a una bicicletta si aggirava sulle 10, 11, 12 ore. Quindi si trattava di imprese sportive che erano veramente lontano da quelle del ciclismo di oggi, molto di più che non i 100 anni possono lasciar supporre. È l'Italia d'inizio Novecento quella che accompagna i ciclisti del primo giro. Un'Italia che solo 2 anni più tardi festeggia il cinquantenario dell'unificazione. Un paese dove un operaio tessile guadagna appena 1,16 lire al giorno. Una nazione povera, in gran parte contadina, che si sta appassionando allo sport e al ciclismo. E di questa Italia la bicicletta è il principale strumento di locomozione. Sentiamo ancora lo storico Daniele Marchesini. La bicicletta comincia a diventare, relativamente ai costi, accessibile anche a chi aveva delle rendite molto modeste. Nel 1909 in Italia circolano ufficialmente ormai quasi 600.000 biciclette. Sono cifre abbastanza certe, perché bisognava pagare un bollo, così come oggi lo si paga per le macchine. Allora 10 lire era il costo del bollo necessario per circolare in sella a una bicicletta. Nel 1911, in occasione del 50° anniversario dell'unificazione d'Italia, il Giro parte da Roma. È solo il primo degli omaggi che nella sua storia la gara a tappe renderà al proprio paese e che testimoniano il legame tra questa kermesse e l'Italia intera. Quelle bambine bionde, Giovanni Gerbi è il primo grande mito del ciclismo italiano. Lo chiamano il diavolo rosso, rosso per il colore della maglia indossata in gara, diavolo per il suo carattere diabolico che lo porta a una squalifica di 6 mesi per aver seminato chiodi sulla strada dopo il suo passaggio. Diavolo rosso, dimentica la strada. Ai più, la corsa a tappe appare non come una gara sportiva, bensì come una vera e propria prova di resistenza. La 6ª edizione della corsa, quella del 14, è il perfetto esempio di quello che verrà poi definito come ciclismo eroico, espressione che sta a testimoniare quanto faticoso sia correre in bici. Sentiamo ancora Marchesini e il giornalista Gianni Mura. Quel giro si iscrivono 80 corridori alla partenza, ne arrivano soltanto 8. Quindi è il 10% soltanto degli iscritti che arriva alla fine. Essenzialmente il ciclismo nasce tra i nobili e quando i nobili si accorgono che è faticoso lo lasciano ai poveri. Le grandi corse erano sempre di resistenza, era già comunque quello che è rimasto poi, solo che aveva più cantori allora, è rimasto una chanson de geste fondamentalmente. Perché il ciclismo è ancora l'unico sport in cui gli stessi protagonisti sono impegnati nell'arco di 3 settimane. Ancora oggi l'edizione del 1914 mantiene il primato per la tappa più lunga, Lucca-Roma, 430 chilometri. Ad aggiudicarsela è Costante Girardengo, appena 21enne. Girardengo ha pedalato per 17 ore e mezza dimostrando tutto il suo talento. Un talento che negli anni successivi lo trasformerà in un vero e proprio mito del ciclismo. Ma anche sul Giro sta per abbattersi la tragedia della Grande Guerra. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia del Giro d'Italia, una delle gare più appassionanti dello sport, nata agli inizi del Novecento. La Grande Guerra, una tragedia di trincee, morti e feriti, impone al Giro d'Italia uno stop di 3 anni. Dopo aver visto per 6 anni i loro campioni sfidarsi lungo le strade del paese, adesso gli italiani si trovano a tifare altri giovani, diretti verso ben altro traguardo. Bisognerà aspettare fino al 1919 per vedere di nuovo ripartire la carovana del Giro d'Italia. Sei mesi difficilissimi per il paese che non piegano però la passione degli italiani per la corsa a tappe. Nel 1919 il Giro riprende. Sulle strade migliaia di italiani che accolgono il Giro come un simbolo ormai definitivo della patria. Vincere è Costante Girardengo, l'omino di Novi, così chiamato per la sua corporatura. È il primo vero indiscusso campionissimo del ciclismo. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Ma con il primo vero campione arrivano anche i primi sfidanti e con loro i duelli sulle montagne, le volate, le fughe solitarie su quelle strade polverose. I tifosi iniziano a dividersi e comincia così anche l'era dei dualismi tra campioni. A sfidare il campionissimo è prima Bottecchia, poi il grande Binda. Ed è proprio Binda a detronizzare Girardengo. Varesino, emigrato a Nizza, di professione stuccatore, Binda inizierà una nuova rivalità con Guerra. Ce ne parla ancora lo storico Marchesini. Guerra più popolare di Binda, anche se meno vincente. Più popolare di Binda perché correva con una generosità che la folla dei tifosi del ciclismo a Binda non riconosceva. Binda era troppo forte al punto che l'organizzazione del Giro d'Italia lo paga perché lui non corresse, perché altrimenti avrebbe tolto ogni interesse alla corsa. Binda è molto forte, ma aveva una freddezza, un'eleganza che non poteva piacere insomma alle folle, così come invece alle folle piace Guerra, forse anche perché aveva un nome così che gli anni che correvano rendono abbastanza accattivante. Nel 1931 a indossare la prima maglia rosa istituita in quell'anno sul modello del Tour de France è Learco Guerra, chiamato dagli organizzatori a fermare l'inarrestabile Binda. Guerra conquista la prima maglia rosa proprio a Mantova, sua città natale, dove batte in volata il grande rivale. È un combattente subito ribattezzato la locomotiva umana. Il suo anno magico è il 1934. Guerra vince 10 tappe su 17. Siamo in piena epoca fascista. Al Giro, come del resto a tutte le maggiori manifestazioni sportive, il regime attribuisce un ruolo fondamentale per l'affermazione della propaganda e della mitologia nazionalsocialista. Sentiamo Gianni Mura e Alfredo Martini, ciclista e CT della Nazionale Italiana. Se uno va a rivedere i titoli del 38, di quando vinse Bartali al Tour, per esempio, nella prima pagina della Gazzetta si parla dell'ordine del Duce era di vincere e Bartali ha obbedito in terra di Francia, il titolo era più o meno questo. Il Giro d'Italia era strumentalizzato anche da parte del fascismo, era una corsa popolare che attirava tantissima gente, quindi sotto certi aspetti il fascismo riusciva a sfruttare questa situazione. Le manifestazioni di regime nel ciclismo erano abbastanza ridotte, nel senso che non c'era una squadra che faceva saluto romano a centrocampo. Bartali non lo fece mai il saluto romano, per esempio, per scelta. L'unico distintivo che ebbe in vita sua fu quello dell'Azione Cattolica ed è per questo comunque, per non aver fatto il saluto romano neanche a Parigi dal podio, che Mussolini non gli concesse la medaglia d'oro al valore sportivo ma solo quella d'argento. Non posso dire che fosse antifascista in toto il ciclismo come sport. Certamente aveva degli anticorpi di terrestrità, di umanità, di antiretorica che non lo rendevano particolarmente sfruttabile dal fascismo, che infatti non fece operazioni tipo quella realizzata con Carnera, per esempio. Carnera diventò a un certo punto involontariamente un emblema dell'Italia forte del Duce. Bartali no. Negli anni 30 il ciclismo è lo sport più seguito. Nonostante le promesse del regime, il paese è ancora lontano dalla modernizzazione. Ma in quegli anni qualcosa cambia e sono sempre di più le tappe corse lungo le strade asfaltate. Daniele Marchesini. Dal punto di vista sportivo e più squisitamente ciclistico, c'è da dire che senza dubbio cambiano le tecniche. Cioè la bicicletta si modernizza e si perfeziona. Fanno la loro apparizione degli strumenti che sono fondamentali per il ciclismo, il cambio. Nel 1936 arriva il cambio prodotto da Tullio Campagnolo, che permette di cambiare stando in sella e senza bisogno di tendere la catena. Il ciclismo durante il passaggio dalla prima alla seconda guerra si modernizza anche perché è sempre meno sport individuale, individualistico e sempre di più sport di squadra. Ci vuole spiegare perché il corridore ha bisogno di una squadra? Per vincere una grande corsa così non basta essere forti per questo, perché ci vuole almeno 3 specialità per essere sicuri. E oggi 3 specialità non ce l'ha nessuno. Loro occorre avere una forte squadra che anziché pagare di persona lo sforzo contro i grandi avversari lo facciamo pagare ai gregari, e ci può essere quello che è più debole sulla carta ma che ha lavorato meno, cioè la squadra più forte diventa più forte in finale. La tensione cresce ancora con l'avvento di un giovanissimo di 22 anni. Per le sue ricorrenti affermazioni di fede lo chiamano Gino il Pio. Toscano di Ponte Aema, di cognome fa Bartali. Ama la bicicletta forse più di ogni altra cosa al mondo. Diventerà un mito per la sua forza, la sua classe, il suo caratteraccio di toscano amato dalle folle. Oh, quanta strada nei miei sandali! quanta ne avrà fatta Bartali? Bartali è l'uomo forte del ciclismo italiano. Già nel 36 e subito dopo, nel 37, si impone al Giro d'Italia. È forte in salita, un combattente nato, con un fisico eccezionale e un grandissimo seguito di pubblico. Corre per la Legnano e fa impazzire le folle. Nel 38 anche i francesi devono arrendersi al toscano, che conquista il primo Tour de France. Con Bartali ho avuto modo, quando lavoravo in Gazzetta, di fare a volte quasi tutto un Giro d'Italia sulla sua macchina scoperta, e si fermava 250 volte in una tappa a firmare autografi, perché lo fermavano, non era lui che si fermava, c'era la gente che diceva arriva Bartali, si mettevano in mezzo alla strada e si, davanti alla corsa. Sono anni di grande esaltazione per Gino Bartali, che continua a vincere, ma nel 40 improvvisamente si affaccia sulla ribalta nazionale un giovane di soli 20 anni. È Garzone di Salumiere, tra Castellania e Novi Ligure. Si allena recapitando salami e tranci di pancetta. Corre anche lui nella Legnano e Gino lo ha incontrato qualche tempo prima. Si chiama Fausto Coppi. In occasione della 27esima edizione del Giro, nella tappa Firenze-Modena che include la montagna dell'Abetone, tanto cara proprio a Bartali, quel ragazzo stacca tutti. Indossata la maglia rosa, la terrà per 10 tappe e ci arriverà fino a Milano. A sorpresa, Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia. È il 9 giugno del 40, è nato il più grande mito del ciclismo mondiale. Sentiamo i giornalisti Nino Villa e Gianni Mura. Bartali era andato in crisi in quel Giro d'Italia, era il capitano del Legnano. Coppi era all'esordio, 1940, 21 anni. E quindi Bartali dette il via libera a questo giovane senza pensare a quello che sarebbe successo negli anni a venire. Coppi era un atleta strano, sembrava uscito da una combinazione alchemica. Io ho fatto in tempo a vederlo e dava l'impressione di un essere tutto gambe, sgraziato giù di sella, bellissimo in sella. Perfetto sotto sforzo. In più aveva anche questa faccia con un'idea di lontananza. Non avevo una faccia particolarmente da ciclista, mi si può dire qual è la faccia da ciclista, io risponderei Bartali è una vera faccia da ciclista. Se noi guardiamo il fisico di Coppi, è fatto per la bicicletta, senza polpacci, le grandi cosce, il grande stomaco, grande aria, questi polmoni esagerati, e quindi lui in montagna, specialmente dopo 2000 metri, era superiore a tutti. Era la voce di Fiorenzo Magni. Così i quotidiani del 10 giugno 1940 riportano la notizia della vittoria a sorpresa del giovane campione al Giro d'Italia. Fausto Coppi, nel doppio segno della giovinezza e della tradizione, ha recato testimonianza della gagliardia e della serenità della patria in armi. Poche ore e in armi il paese sarà davvero. Benito Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia annuncia che l'Italia è in guerra. La Seconda Guerra Mondiale porta distruzione, morte e miseria. Di nuovo, negli anni del conflitto, il grande giro a tappe si ferma. Coppi finirà a combattere in Africa, Bartali, invece, resterà in Italia. I due grandi campioni si ritrovano così a vivere storie comuni a tanti altri italiani. La guerra sta per finire e la bicicletta ha un ruolo fondamentale per le staffette partigiane. La Seconda Guerra Mondiale è finita, gli italiani hanno perso tutto. Le due ruote rappresentano un bene troppo prezioso per gli italiani. Nel 1946 l'organizzazione riesce a mettere in piedi questo giro che viene immediatamente battezzato come Giro della Rinascita. Giro della Rinascita volendo significare che rinasce il Giro d'Italia ciclistico, ma contemporaneamente rinasce il paese. Rinasce l'Italia. E finalmente, con il Giro della Rinascita, gli italiani possono tornare a tifare per i due campioni. La corsa la vince quel toscanaccio del Giro nazionale, al secolo Gino Bartali, che si prende la rivincita proprio su Coppi. Sullo sfondo di un'Italia che ricomincia a crescere, anche nei salari, il dualismo Coppi-Bartali segnerà tutti gli anni a venire. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, il Giro d'Italia con i suoi campioni è il protagonista della storia che oggi raccontiamo. La rivalità tra Coppi e Bartali, anche nel dopoguerra, continua ad accendere le folle. L'antagonismo tra i due è fortissimo, ma tra i due contendenti si inserisce quello che i giornali chiamano il terzo uomo, Fiorenzo Magni. Io ero ragazzina, avevo 14-15 anni, allora a mio babbo allora mi ha comprato questa bicicletta. E le prime tre corse sono andato senza dire niente, perché non è come adesso. Prima fai campione e poi studi, molte famiglie dicono. Allora prima lavorare e poi facevi lo sportivo. Sportivo lo diventa eppure agguerrito. Magni vince tre Giri d'Italia, nel 48, nel 51 e nel 55. Fa la tripletta al Giro delle Fiandre che gli valgono, oltre che il soprannome di Leone delle Fiandre, anche il rispetto e l'ammirazione generale. Sì, c'era Magni, però insomma io sono sempre stato i piedi per terra. Io li giudicavo più forti di me e allora dovevo inventare qualcosa per batterli. Qualche volta sono riuscito. Era una rivalità. Adesso cercano di annacquarla. Si parlavano a stento. E Coppi diceva: cosa ha detto quello là? Quello là era Bartali. E Bartali diceva: cosa ha detto quello là? Questa grande rivalità c'era, è stata la forza del ciclismo che ha diviso l'Italia. Nella rivalità giocavano anche dei ruoli che erano stati assegnati dall'opinione pubblica a Coppi e Bartali. Bartali era l'uomo di chiesa, Bartali era bianco e Coppi, anche per la sua storia d'amore, per cui era stato molto bacchettato dalla Chiesa, e Coppi doveva essere rosso se Bartali era bianco. In verità Bartali era bianco e Coppi pure. Infatti la politica c'entra poco. Se è vero che Bartali in quegli anni viene definito il De Gasperi del ciclismo, è anche vero che ci sono numerosi circoli di partigiani che lo chiamano il Togliatti della strada. E il toscanaccio, proprio in quell'estate del 48, accontenterà entrambi regalandoci una storia dal sapore di leggenda. Moi je suis les verts, au fond du café. Di là dalle Alpi sta per iniziare il Tour de France. In Sicilia, Antonio Pallante, un giovane di 24 anni, sale su un treno diretto a Roma. In testa ha un'idea fissa. Nella valigia, una pistola e il Mein Kampf, il libro di Hitler. A Parigi la corsa ha inizio e Bobet, speranza del ciclismo francese, è maglia gialla. Bartali è in ritardo di oltre 3 minuti. Pallante inizia a studiare i movimenti del segretario del Partito Comunista Palmiro Togliatti con un preciso piano in mente. Il 14 luglio riposano i corridori del Tour. A Roma, alle 11:30, Antonio Pallante spara 4 colpi di pistola contro Palmiro Togliatti. L'attentatore è già in manette mentre il segretario del Partito Comunista Italiano viene operato d'urgenza. A Cannes tutto tace fino a pomeriggio inoltrato. Poi, d'improvviso, i nostri corrispondenti fanno le valigie, devono rientrare. In Italia sta scoppiando la rivoluzione, sciopero generale, blocco stradale, interrotte le comunicazioni, i corridori italiani sono preoccupati. A tarda serata arriva una telefonata per Bartali. Dall'altra parte del filo c'è Alcide De Gasperi. Se poi leggi che qua c'è una grande confusione, c'è tanta confusione. Se puoi vincere, vinci, perché qui c'è una grande confusione. E Bartali risponde pedalando. Il giorno dopo, Bobet, in maglia gialla, arriva 20 minuti dopo il vecchio Gino. In Italia la situazione si calma anche perché Togliatti dall'ospedale richiama tutti all'ordine. È nata la leggenda dell'uomo che salvò l'Italia pedalando. L'anno seguente, nel 1949, a entrare nella leggenda è Coppi che vince Giro e Tour. È la prima volta che accade nel ciclismo italiano. Nella tappa Cuneo-Pinerolo, Fausto Lairone firma quella che è stata definita la più grande impresa del ciclismo di tutti i tempi. 192 chilometri di fuga solitaria. Coppi è il primo al traguardo e aspetterà il rivale Bartali per 12 minuti. A raccontare le imprese del ciclismo è il radiocronista, la voce che descrive agli italiani ciò che non possono vedere. La radio è l'unico media che permette la diretta. I cinegiornali infatti possono mostrare le immagini solo dopo, nei giorni seguenti, quando tutto è già finito. Alla radio invece i tifosi seguono il giro minuto per minuto. Claudio Ferretti. C'era la radiocronaca dal raduno di partenza, che durava grosso modo un quarto d'ora, intorno alle 10 della mattina, e se non ricordo male andava in onda sul programma nazionale della radio. Da quel punto in poi, per arrivare alla radiocronaca diretta dell'arrivo della tappa, c'era l'appuntamento che i ragazzini di allora rincorrevano da una stazione all'altra di mezz'ora in mezz'ora o di ora in ora per le varie edizioni del giornale radio. In quegli anni via etere la radio trasmette varietà che ruotano attorno alla corsa. Anche i giornali di carta stampata si ritrovano a raccontare qualcosa che i loro lettori non hanno visto, e in quegli anni, oltre alle grandi firme del giornalismo sportivo, i quotidiani mandano sulle strade del Giro penne celebri come Alfonso Gatto, Vasco Pratolini, Dino Buzzati, Achille Campanile. E a seguire il Giro si ritrovano anche giornalisti che con lo sport sembrano avere poco a che fare. Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca. Così Gianni Mura ed Ettore Mo. Il ciclismo è sempre stato uno sport raccontato su due piani. Uno era quello della corsa pura e semplice. L'altro era quello del paesaggio. L'altro era quello dei pezzi cosiddetti di colore. Io ero un ragazzo quando leggevo Olio Vergani. Ecco, lui seguiva il Giro, poi parlava di come si mangiava in quell'osteria, di come arrivavano i ciclisti. Parlava delle Dolomiti o parlava del meridione d'Italia in una maniera fantastica. Era come leggere un romanzo di Balzac, leggendo. Naturalmente poi ci va Dino Buzzati, altro tipo di scrittura sofisticata, intellettualizzata, approfondita sulle difficoltà dei ciclisti, sulla loro psiche, eccetera. Ed era tutto un altro paesaggio. Negli anni 50 le ditte produttrici di biciclette e accessori iniziano ad avvertire le prime difficoltà. La pubblicità della Lambretta sui quotidiani esprime in maniera inequivocabile il mutamento nelle preferenze. Con il fatturato dell'industria della bicicletta in forte calo, il ciclismo ha bisogno di nuova linfa economica per sopravvivere e continuare a dare spettacolo. Nasce così lo sponsor. Le case di biciclette erano in difficoltà, era un periodo di crisi. E allora a forza di pensare, a forza di dire ma perché io devo correre per le biciclette e non per un altro oggetto, ho conosciuto questi Zimmerman, titolare della Nive, ho proposto di fare la squadra. La Parigi-Roubaix non mi prendevano con la maglia Nive, ma mi prendevano con la maglia di campione italiano. Allora Coppi ha detto io vengo alla Parigi-Roubaix se Magni viene con la maglia Nivea, perché Fausto aveva capito fin da allora che l'avvenire era la sponsorizzazione, erano gli extra ciclisti, e quindi da lì è successo che tutti tante grandi industrie si sono buttate in questo settore. Per me è stato più redditizio i 3 anni sponsorizzati che tutta la mia carriera. Pedalando, pedalando, la corsa vola e va. L'avvento delle sponsorizzazioni nel mondo del ciclismo cambia radicalmente il corso e le fortune e l'organizzazione del Giro d'Italia. Protagonisti indiscussi della carovana in rosa diventano gli sponsor e la televisione. Anche il linguaggio cambia. Sulla scena, infatti, irrompono i procuratori, i contratti e i diritti televisivi. Dal 1954, l'anno della sua nascita, la televisione è il mezzo che eredita le fortune radiofoniche seminate nei racconti di un giro dopo l'altro. La trasmissione più seguita è Processo alla tappa, condotta da Sergio Zavoli. Processo alla tappa va in onda a fine corsa per commentare analiticamente il Giro d'Italia con le parole di intellettuali, allenatori, meccanici e gente comune. In radio dal 1958 il programma di Zavoli approda in televisione nel 62. e un successo immediato. La televisione secondo me ha banalizzato il ciclismo, però io credo che i grandi miti non siano nati casualmente in assenza della televisione. Credo che abbiano mantenuto il loro fascino, la loro inaccessibilità in un certo senso, proprio per la mancanza di esposizione mediatica. Il 2 gennaio del 60 muore Fausto Coppi. Di ritorno da un safari in Africa, Coppi si ammala di malaria, ma i medici non lo capiscono. Sbagliano diagnosi, sbagliano cure. Il campionissimo entra nella leggenda e Bartali resterà così orfano di Coppi. Ed io ripenso a quel tempo lontano, le nostre lotte sui monti e sul piano, e sulle Alpi coperte di nevi. Come perdevi, come perdevi. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. L'Italia ormai sta cambiando. Dai ladri di biciclette di De Sica si passa al sorpasso di Dino Risi. Il punto di riferimento sociale ed economico ormai è l'automobile, e nello sport il calcio comincia a farla da padrone. Per il ciclismo è il momento di un altro grande, Felice Gimondi, che nel 65, giovanissimo, vince il Tour de France. Quell'inizio della mia carriera nel professionismo fu un inizio esaltante. Vinsi subito il Tour, l'anno dopo vinsi Parigi-Roubaix, Parigi-Bruxelles, Giro Lombardia, e mi ritenevo anche tramite la stampa il numero uno. Nel 68 però arrivò uno che cominciò a menarmi di brutto, questo lungo e grande atleta belga che andava forte dappertutto, soprattutto andava forte dal 1 gennaio al 31 dicembre, vinceva il prologo, vinceva il cronometro, vinceva in salita, vinceva in volata e mi batté la prima volta anche in una gara a tappa al Giro d'Italia, dove fino allora i belgi non erano mai stati dei draghi nelle gare a tappe. E lui vinse anche quelle, vinse 5 giri, 5 tour. Questo lungo e grande atleta belga si chiama Eddy Merckx ed ha un soprannome che la dice lunga, il cannibale. Eddy Merckx era un grandissimo atleta e uno che alla domanda brevissima «Eddy, che cos'è per te lo sport?» rispose «Gagné», cioè vincere. E con questo tirando tre palate di terra sulla tomba del vecchio barone de Coubertin. Ho fatto due anni difficili, 68-69, soprattutto 68, lui vinse il Giro d'Italia, però io vinco la cronometro San Marino. E dopo il Giro d'Italia a settembre c'è il Giro di Catalogna e lì mi batte la prima volta anche a cronometro. È lo sport, secondo me, più vero e più drammatico del mondo, dove la forza fisica e psicologica contano moltissimo. È veramente questa lotta tra giganti assoluti. Nonostante l'esaltazione delle folle, il ciclismo di quegli anni cambia rapidamente. Sono gli anni dei controlli, delle squalifiche dei corridori per l'uso illecito di sostanze dannose e pericolose. Negli anni arrivano eccitanti, anabolizzanti, emotrasfusioni, EPO. Il doping stravolge lo sport. Lei, signor Merckx, sostiene di non essersi drogato. Qual è stata la sua prima reazione non appena ha saputo che era stata trovata positività nelle sue analisi? Poi io non so che dire, io non capisco niente, perché io sono sicuro di aver preso niente, sicuro. Ai nostri tempi non c'era questa parola di doping, è venuto dopo. Ai nostri tempi c'era la simpamina, si chiamava simpamina, non so se si chiama ancora simpamina, estenamina. Quella che allora si chiamava la bomba o che si chiamava droga senza falsi pudori, aveva largo impiego all'interno del gruppo. Tutti i corridori prendono le bombe? Sì, tutti, e quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi. Tu prendi bombe, Fausto Coppi? Naturalmente, quando serve. E quando è che serve? Quasi sempre. Certo che passare dalla pastiglia di anfetamina che ti faceva mettere fuori quello che avevi di tuo, a altri prodotti che modificano la cilindrata lasciando intatta la carrozzeria, dopodiché ci sono le tendiniti, dopodiché ci si opera i tendini, ci si opera la vena iliaca, eccetera, eccetera. Secondo me il doping è sempre 10 anni avanti all'antidoping. Io credo che il doping faccia parte di una nostra mentalità dove si cerca sempre di stare nel limite delle regole. Mi rendo conto che fa parte anche del mio mondo. In quegli anni non è solo il ciclismo a essere stravolto. Dopo il boom degli anni 50, la spensierata ribellione degli anni 60, arrivano gli anni 70 e portano il grande terrore. Bombe, scontri di piazza, lotta armata. Di fronte a un'escalation di violenza senza precedenti, la società italiana è paralizzata e lo sport le offre una delle poche occasioni di sfogo e di serenità. In quegli anni così bui il giro continua. Gli stranieri, Merckx in testa, continuano a vincere. Gli italiani sono delusi, ma pronti ad accogliere il nuovo eroe nostrano delle due ruote, Francesco Moser. Moser è un vero campione, eccellente passista. Fatica in salita, ma sa recuperare in discesa. Le sue specialità sono le classiche e le tappe a cronometro. Arriva primo ben 276 volte, un record impressionante. Giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non... Sul finire degli anni 70 si fa strada un altro italiano, Giuseppe Saronni. La rivalità con Moser riaccende gli animi degli appassionati. Nella sfida tra i due è Saronni il primo a vincere il Giro d'Italia. L'anno è il 1979 e batte Moser persino a cronometro. Moser sembra finito. Poi, invece, arriva il suo anno. È il 1984. In gennaio Moser va in Messico e strappa il record dell'ora al grande Merckx. In primavera vince la Milano-Sanremo. All'apice del successo regala ai suoi tifosi anche la vittoria più attesa e inaspettata, il Giro d'Italia. L'Italia intera è con lui. Ed ecco, 49-26, l'apoteosi di Francesco che entra, ed ecco l'urlo. Nel 1990 è Gianni Bugno a esaltare i tifosi indossando la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa. La faccio finita. Meglio sparire. Grandi campioni come Saronni, Moser, Bugno vincono e fanno sognare il mondo del ciclismo. Ma poco a poco, inesorabilmente, il Giro d'Italia sembra perdere in popolarità. I tifosi sembrano non credere più alle grandi imprese. Finché, nonostante le polemiche, i controlli notturni, le squalifiche, qualcosa cambia. Sulla scena del ciclismo mondiale irrompe un campione grandissimo. È romagnolo, si chiama Marco Pantani, per tutti, il pirata. È un nuovo sogno, un sogno che durerà poco, ma che resterà per sempre nella storia dello sport sulle due ruote. Marco Pantani è stato soprattutto quello che ci ha fatto tornare appassionati del ciclismo. Impazziscono per questa grande, splendida, indimenticabile azione di Marco Pantani. Pantani aveva la capacità di vincere entusiasmando i suoi tifosi, non soltanto entusiasmando tutto il pubblico del ciclismo in montagna. Attenzione, scatta Pantani. Lo scatto di Pantani. Ha fatto delle cose che nessun corridore al mondo l'ha fatte, neanche Coppi, neanche Bartali. C'è una frase di Pantani che torna spesso ed era contenuta in un'intervista mia a Pantani. Io gli avevo chiesto, ma Marco, ma perché vai così forte in salita, anche quando non servirebbe più, cioè potresti rallentare e gestire, come si dice. Lui rispose, vado così forte per accorciare la mia agonia. Una tappa del Giro d'Italia che arrivava al Santuario d'Europa. Marco ha un problema alla catena, 7-8 km d'arrivo, non so se è entrato un foglio di carta dentro, si ferma, viene staccato da 60-65 corridori e lui prende, c'erano 5 km all'arrivo, quando rientra sotto sembra addirittura un po' in difficoltà, in affanno, quando i compagni lo portano dentro, pian piano comincia a superare sulla sinistra questo gruppo. 1, 2, 3, 4, 50, 60, 62, 63, 64 Gotti, 65 Jalabert, a 800 metri in arrivo e lui vince la tappa senza alzare le mani, perché forse non era sicuro neanche lui se aveva rimontati tutti. Io lo voglio ricordare così.